Ta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, questo programma non ha mai parteggiato per i sindacati, ci mancherebbe, ma voglio dire, io mi chiedo quale sia la cultura non sindacale, la cultura del diritto del lavoro nel gruppo Ryanair, contro il quale non abbiamo nulla. Abbiamo raccontato il caos che si verificò sui voli Ryanair per una incapacità organizzativa interna, poi magari lo ricorderemo, la parte che riguardava appunto la turnazione di piloti e non solo, e equipaggio, diciamo, assistenti di volo. Però è successa una cosa, come i nostri GR24 vi hanno già raccontato a chi li ha ascoltati, abbastanza singolare. L'ufficio del personale di Ryanair scrive, e non solo agli italiani, nel senso che i piloti e gli assistenti di volo tedeschi hanno e anche irlandesi hanno detto che vanno avanti con lo sciopero. Ha scritto una lettera che vi voglio leggere, non nella sua forma inglese, anche se abbiamo l'originale, ma nella sua traduzione italiana. Dunque, dice sostanzialmente: Ryanair, niente aumenti o promozioni per chi sciopera. Un invito a non aderire all'estensione del lavoro in calendario il 15 dicembre prossimo. Per chi sciopererà, insomma, sono previste sanzioni come la perdita di futuri aumenti in busta paga, trasferimenti ed eventuali promozioni. Il sindacato dei piloti sta incoraggiando a non lavorare il prossimo 15 dicembre. Ci auguriamo che vogliate continuare a lavorare come vostro dovere come previsto. Allora, caro Eddie Wilson, Chief People Officer, visto che poi in inglese è ancora più forte, it may also result in the loss of the future pay increase remaining under your base agreement and no transfer or promotion. Vorrei ricordare al capo del personale Eddie Wilson e al suo capo O'Leary, molto bravo quando c'è da, anche in maniera ogni tanto genialoide, scherzare con campagne di pubblicità molto aggressive, che voglio dire, il diritto di sciopero non lo gestisce né lo inventa né lo regola Ryanair, lo regola il diritto del lavoro dei singoli stati in cui opera il vettore Ryanair. E vorrei ricordare che il diritto di sciopero, essendo un diritto, non può essere collegato a eventuali promozioni, aumenti o addirittura trasferimenti come elemento negativo e anche un cambio nella turnazione. Non funziona così. Se no, è ovvio, cioè, ma siamo alla base, mio caro O'Leary, che non ne sta azzeccando una in questo periodo, e anche il suo capo del personale. Ne parleremo, anche perché, tanto direte che io do sempre ragione a Calenda, ma glielo do anche stavolta, poi parliamo anche in apertura di Emiliano. È intervenuto per primo il ministro Calenda, anche se poi è intervenuto anche il ministro Poletti. Dice: è indegno, non è il mio ambito di responsabilità, ma ritengo che il governo debba intervenire. Non si può stare su un mercato, pretendere i vantaggi e non rispettarne le regole. Poi è intervenuto il ministro Poletti, definendo la lettera inviata ai piloti di Ryanair una cosa gravissima, nel senso che questa lettera è stata inviata alle varie sedi dove opera Ryanair. Quella che ho appena letto è nella mail to all Italian based cabin crew, quindi non solo i piloti ma anche gli assistenti di volo. Il ministro Poletti ha detto che al Ministero del Lavoro compete il controllo dell'applicazione dei contratti e delle leggi riferite al lavoro, ce ne occuperemo noi. Per quello che fa riferimento ad altre problematicità come il diritto di sciopero, qui ci sono due, addirittura poi ne parleremo, due estremi. Una è un'attività antisindacale, poi c'è a livello costituzionale il ledere il diritto di sciopero previsto dal Costituzione, è garantito appunto dalla Costituzione, e dice il ministro Poletti, tocca alla magistratura intervenire. Poi la parte tipo penale, ci sono gli ispettorati del lavoro a segnalare eventuali fenomeni di illegalità e conflitto con la legge. Forse sarebbe il caso che questi gruppi più o meno anglosassoni, quando operano in un paese, al di là di fare i ricavi e fatturare da un'altra parte, e questo mi riferisco alla web tax, ma vedi il caso di Amazon che ci ha scritto, ha detto guardate che noi abbiamo un'attività diversa, noi non siamo tra quelli, ed è vero, tra quelli che pagano poche tasse in Italia, però è intervenuta la GCOM su Amazon a ricordare che se tu svolgi un'attività di fatto postale devi essere sottoposto alle regole a cui sono sottoposte per esempio le poste italiane, e anche nel caso diciamo di Ryanair, ma insomma io dico, ma volete leggervi così un bignami del diritto dei lavoratori europei, giusto per farvi un'idea prima di scrivere queste cose che non stanno in cielo in terra e che tra l'altro i tedeschi vi hanno già mandato a quel paese come sindacati, lo faranno chiaramente anche gli italiani, e a questo, da quello che si capisce, i sindacati di tutta Europa stanno intensificando il pressing affinché la compagnia riconosca la rappresentanza sindacale indipendente. Si sono formati consigli di lavoro locali in Spagna, Svezia, Portogallo e Paesi Bassi. I membri dell'Irish Airline Pilots Association, quindi gli irlandesi, hanno sostanzialmente avvertito Ryanair che si fermeranno per un giorno il 20 dicembre, dopo che Ryanair si è rifiutata di riconoscere i gruppi sindacali. In Germania il sindacato dei piloti di tedesco, che si chiama Cockpit, ha annunciato lo sciopero con stop dell'attività in qualsiasi momento, eccezione fatta per le feste dal 23 al 26, per iniziare negoziati salariali con Ryanair. Insomma, ne parleremo, ma mi sembra che quanto effetto boomerang ci siamo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Parleremo in apertura chiaramente del rapporto del Centro Studi Confindustria, che dice attenzione, la presentazione questa mattina a Roma degli scenari economici, rialzata all'1,5% la stima del PIL italiano 2018 contro l'1,3 e l'1 iniziale, 1,5 anche nel 2000, o meglio un po' più debole, 1,2 anche nel 2019, ma è una prima stima. Il rischio per Confindustria è il voto, l'Italia al bivio, bisogna stare attenti a non arretrare, cresce l'occupazione ma resta l'emergenza giovani, a 7.700.000 persone manca ancora il lavoro. Anche di questo ci occuperemo e poi andremo sul caso Melegatti, ieri non siamo riusciti ad approfondirlo a sufficienza. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Melegatti, tra l'altro, che ahimè oggi è entrata in cassa integrazione, quindi ne parleremo anche per notizia di cronaca. E partiamo come sempre dai mercati. Oggi Milano è la peggiore, nettamente, -1,36%, Parigi perde lo 0,50%, Francoforte lo 0,30%, Londra invariata, Dow Jones più 0,50%, euro quota 1,17. Perché? Beh, di nuovo le preoccupazioni sulle banche dopo quanto richiesto dalla BCE, e mi riferisco a Bipper che perde il 6,1%, UBI il 4,70%, Banco BPM il 4,60%, Unicredit il 4,40%. Faccio anche notare che da questo punto di vista di positivo c'è poco. Case New Holland CNH più 1,36%, ST Microelectronics più 1%, Generali più 0,80%. Tra i non bancari in calo anche Telecom Italia -3%, Tenaris -2,60%, come Moncler e A2A. Dunque, le notizie come sempre in breve. Segnalo un nuovo intervento sul Bitcoin, questa volta il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz. La probabilità che la corsa del Bitcoin finisca in lacrime è alta, è proprio perché non ha trasparenza che il Bitcoin come mezzo di pagamento è richiesto, lo è da persone che lo usano principalmente per attività illecite. Quando questo sarà chiaro, i governi lo faranno cadere, la domanda andrà a picco. I governi chiederanno trasparenza e anche in questo caso la domanda per il Bitcoin sparirà. Questa è l'opinione di Stiglitz. Quanto invece al vertice WTO di Buenos Aires, sarà ricordato probabilmente come il vertice più disastroso, perlomeno più inutile, anche per l'opposizione americana. Si va verso il flop, non vi sarà nessun accordo tra Unione Europea probabilmente e Mercosur. Il negoziatore americano Robert Lighthizer è tornato praticamente a casa, e il portavoce dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, Keith Rockwell, ha detto: i negoziatori sono settati sulle modalità a guardare avanti per mettere in piedi programmi di lavoro credibile, anche se c'è disappunto per non aver raggiunto risultati ambiziosi qui a Buenos Aires. Parte il comunicato, che è da riscrivere in un italiano diciamo corretto. Ripeto, sono tornati a casa già il negoziatore americano, anche quello norvegese, dopo aver rifiutato di fare ogni concessione all'India sullo stoccaggio pubblico per la sicurezza alimentare, e quindi rendendo quasi impossibile ogni accordo di fondo sul per quello che riguarda il WTO. L'Italia. Allora, il TAR del Lazio dovrà predisporre un'immediata fissazione dell'udienza di merito per valutare le questioni sollevate da Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments UK sulla tassa sugli affitti brevi. Airbnb infatti aveva fatto ricorso contro la tassa sugli affitti brevi chiedendone la sospensione. Il TAR il 18 ottobre aveva respinto la richiesta, adesso il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di un apprezzamento le questioni poste, quindi dice al TAR di fissare un'altra udienza. Io faccio notare che anche Airbnb, ci vi ridarò il dato, è una delle società che con la scusa che fattura a Dublino, o meglio dice che tutto va su Dublino, paga poche, pochissime, niente. Airbnb Italy l'anno scorso ha pagato 60.000 euro di tasse. Voi mi direte, ma ci pagano le tasse i singoli affittuari. Ho capito, ma tu sei la società che gestisce questo, non mi puoi dire che paghi le tasse quanto un medio professionista in Italia. TripAdvisor 20.000, io continuerò a ripeterlo. Twitter 170.000 euro di tasse pagate l'anno scorso. Amazon un po' di più, in effetti 3 milioni di euro. Poi abbiamo Facebook, che ieri ha fatto l'accordo, oggi era su tutti i giornali, ne abbiamo parlato a lungo. Facebook l'anno scorso pagò su 700 milioni di fatturato, triangolando con l'Irlanda, appena 9 milioni di euro di tasse. Vedo molti l'Irlanda nella sua Europa. Guardi che la mia Europa è anche la sua Europa. Dopodiché che questa Europa non funziona in alcune cose, e non torno sulla Germania, ma in questo caso sulla concorrenza assurda che c'è sulla tassazione interna all'Europa, per cui tu puoi andare a posizionarti in Lussemburgo, tanto caro a Juncker, piuttosto che a Dublino, facendo concorrenza di fatto. Ma non è il problema se tu lavori in Irlanda e fatturi in Irlanda, va bene, ma che tu fatturi, o meglio che tu faccia ricavi in Italia, in Francia, in Spagna, e vada poi con la triangolazione a far pagare tasse solo dove più ti conviene, questo non è accettabile. Sì, lo so che per Oscar Giannino è tutto normale, ma molte delle cose che sono normali per Oscar Giannino non lo sono per me. E dopodiché questa è una radio anche libera e delle libertà, perché uno può esprimere un concetto nell'ora precedente, perché Oscar Giannino ritiene: bene, tu vuoi alzare le tasse a livello italiano in tutta Europa? No, dico semplicemente che la concorrenza fatta in sto modo assomiglia più a isole Cayman, isole di Man e quant'altro, che non è un'Europa che si dà un po' di armonizzazione. Certo che poi Juncker è presente, ma è stato presidente del Consiglio per 13 anni in Lussemburgo, magari la sua sensibilità va altrove, non solo qui. Oh, l'Italia, invece una critica, e qui non c'entra nulla l'Europa, è la nostra incapacità di usare i fondi strutturali europei. Siamo 23esimi su 28, peccato perché noi siamo i secondi beneficiari in Europa dei fondi strutturali, una quota del 37%, il primo beneficiario europeo è la Polonia, ma riusciamo diciamo a impiegarne solo pochi. Di meglio di noi fa la Polonia, dietro di noi invece Spagna e Romania. che sono terzo e quarto maggior beneficiario. Per quello che riguarda il gas, qualcuno mi sta scrivendo, pensavo che GR24 l'aveste ascoltati, ma comunque, per carità, sono ripartiti da ieri sera alle 21 i flussi da Tarvisio, per cui non c'è nessun problema in questo momento, ma sul gasdotto è successa una cosa oggi incredibile. Allora, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito oggi in un'intervista questa mattina il cantiere TAP di Melendugno sembra Auschwitz. Se vedete le fotografie, è proprio identico. Hanno alzato un muro di cinta con filo spinato, è impressionante. Stanno militarizzando inutilmente una zona e i cittadini si sentono coartati e vedono in quella struttura qualcosa che ricorda cose tristi della storia. Adesso, per essere corretti, perché Calenda gli ha risposto subito: grave definire Auschwitz. Lui si è scusato con il paragone tra il cantiere TAP e Auschwitz, è oggettivamente sbagliato, quindi si è scusato Emiliano, ma non molla sul tema. Allora adesso ascoltiamo Emiliano, ma abbiate pazienza, il cantiere della TAP è stato blindato un po' come è avvenuto anche in Val di Susa, perché se non ricordo male ci furono decine e decine di scontri, tentativi di invadere il cantiere da parte dei no TAP, come c'erano i NOTAV. Allora cosa fai? Metti le recinzioni. Ma non è che abbiano messo le recinzioni perché non avevano altro da fare. Cioè, prima si crea un movimento assurdo di protesta contro un gasdotto che serve all'intera Italia per 220 ulivi, di cui 120 già spostati. Assurdo. Perché rovinerà il fondale, ne abbiamo parlato anche l'altro ieri. Vabbè. Questi movimenti, come sempre, vedono la partecipazione anche di chi contesta in generale ogni forma di globalizzazione. Va bene, siamo in una democrazia, ognuno è libero di esprimere le sue idee. Ci sono atteggiamenti anche di... il tentativo di invadere il cantiere. Il cantiere viene recintato e una volta che lo recinti, dici, sembra Auschwitz. Ma voglio dire, nella massima libertà, ma non è che se ci sono degli atti che possono essere criminali, tu ti proteggi... A quel punto è trasformato casa tua in una prigione. Ma che cosa vuol dire? Comunque, Emiliano poi ha contestato invece il nuovo ministro Calenda, dice: non medita e non approfondisce. La vicenda del gasdotto pugliese finirà male, è come Baumgarten. Calenda ieri, con una manipolazione di tipo sovietico, anziché parlare della assenza dei controlli di sicurezza sul TAP, comprendendo che quell'incidente sarebbe stato un argomento ulteriore al rinforzo di coloro che non condividono la fretta eccessiva con la quale il governo si sta muovendo in questa materia, ha utilizzato l'evento dicendo che se ci fosse stato il TAP non avremmo avuto 2 ore di interruzione del gas. Ecco, io gli dico che se ci fossero state le verifiche delle direttive Seveso, probabilmente in Austria l'incidente avrebbe avuto minore gravità. Se anche in Austria, io non lo so, non sono in condizione di dirlo, se anche in Austria hanno trattato quell'impianto con la stessa superficialità con la quale stanno progettando l'impianto del TAP, noi stiamo rischiando di avere un incidente simile. Questo avrebbe dovuto dire un ministro. Io lo faccio risentire, perché al di là del fatto che si sia scusato su Auschwitz, ma come si fa a dire che il governo è frettoloso sul TAP? È un accordo che va avanti da anni. Il problema si è creato, non è che ti metti in piedi un gasdotto dall'Azerbaigian che deve servire poi parte del Sud Europa così in un paio di settimane di Consiglio dei Ministri. Il problema si è creato quando il gasdotto, dopo aver attraversato il mare, deve sbucare in Puglia. Dov'è la fretta? E poi, voglio dire, usare l'esempio di ieri per dire che stiamo parlando del più grande snodo del gas probabilmente in Europa, dove, come abbiamo spiegato, arriva quello dall'Olanda, quello dall'Ucraina, anzi dalla Siberia per meglio dire, via Ucraina, con snodi, e anche per dire questo capiterebbe anche in Puglia, ti dà la cifra esatta di quanto l'atteggiamento sia solo politico, solo no, tanto il gas non serve. E l'abbiamo visto anche ieri per un cavolo di esplosione cosa è successo. Il gas non serve e il governo lo vuole fare con fretta. Ma che fretta! Però qui andremo sugli atteggiamenti, diciamo, anti-politica industriali di cui abbiamo parlato con il ministro Calenda la settimana scorsa. Invece voglio parlare dell'industria e delle previsioni di oggi fatte dal Centro Studi di Confindustria. Allora, mentre nel giorno in cui tra l'altro è uscito anche il dato Istat sulla produzione industriale a ottobre più 3,1% sull'anno prima, trainano i beni strumentali più 5%, ma anche quelli di consumo più 3,5%. Oggi il Centro Studi Confindustria ha presentato in mattinata il rapporto sugli scenari economici, alzata la stima all'1,5% per quest'anno e all'1,2% nel 2019. Dice Confindustria: attenzione, l'occupazione cresce, ma resta l'emergenza giovani, a 7.700.000 persone manca ancora il lavoro. L'Italia, con il voto al bivio, c'è il rischio di arretrare. È un test molto rilevante, occorre non tornare indietro sul cammino delle riforme. E in questo senso va anche la dichiarazione del presidente Confindustria Vincenzo Boccia, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, a margine appunto della presentazione delle nuove previsioni economiche del Centro Studi. Il messaggio della politica è di avere chiaro un paradigma di pensiero che stiamo cercando di esprimere da più tempo, cioè prima definiamo quali effetti vogliamo realizzare nell'economia reale, poi individuiamo strumenti, poi quindi risorse e poi interveniamo sui saldi di bilancio. Facciamolo con buon senso e pragmatismo, non smontiamo le riforme che hanno effetti sull'economia reale e andiamo avanti. Evitiamo eccesso di tattiche, evitiamo eccesso di politiche che aumentano solo il deficit e il debito pubblico del Paese, non dimentichiamo che abbiamo un debito pubblico rilevante, e costruiamo una stagione di riforme ma anche di lucidità del capire. Beh, la riforma da smontare è sicuramente il Jobs Act e il Piano Industria 4.0. Se gli effetti sull'economia reale sono quelli che stiamo vivendo, evidentemente ce lo dicono i dati. Quindi valutare i provvedimenti dai risultati e non da altri aspetti. Stiamo facendo un giro in tutta Italia con le preassise. Il 16 febbraio a Verona avremo un grande momento di mobilitazione del sistema industriale italiano, da cui ne deriverà un'agenda economica di medio termine che metteremo a disposizione dei segretari di partito e di chi si candiderà alla guida del Paese. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24, in particolare a te Sebastiano. Grazie Luca, faccio una domanda subito polemica, così andiamo. Allora, visto che venivamo da mesi di revisioni al rialzo sul quello che dovrebbe fare l'economia italiana nel 2017, più 1,5%, avete detto più 1,5% l'anno prossimo, più 1,2% nel 2019, siamo arrivati all'1,5. Noi abbiamo visto qualche segnale di un pochino più di raffreddamento, forse ancora, magari solo momentaneo. Siete stati prudenti? Perché c'era chi in alcuni momenti a settembre-ottobre si spingeva a dire: beh, con questo andamento forse facciamo anche 1,8-1,9. Parliamo del 2017. Sì, immagino. Sì, dell'anno in corso. Certo. Beh, 2017, lasciando da parte quelle che saranno le revisioni statistiche future, perché ogni anno vengono rivisti i tre anni precedenti, sulla base di acquisizione di nuove informazioni, più complete informazioni, perché non tutte le stime si basano su tutto l'insieme possibile di dati che l'Istat raccoglie nel corso del tempo. Pensiamo semplicemente ai bilanci delle aziende, oggi non abbiamo ancora 2016 per capirci. Allora, a prescindere da queste revisioni, 1,5 è quel che viene statisticamente dai risultati ottenuti già nel primo, secondo e terzo trimestre. Quello che manca è il tassello del quarto. Ora, noi abbiamo messo uno 0,4% più di crescita nel quarto trimestre, potrebbe anche essere 0,5, potrebbe essere anche 0,6, dall'1,5 non ci si schioda. Allora, no. Dopo il... Soprattutto dopo che lì sarà rivisto dallo 0,46 allo 0,36 terzo trimestre, perché ricordiamoci, i trimestri non pesano tutti nello stesso modo sul risultato dell'anno. Il primo trimestre pesa per 4/4. Il secondo per 3/4, il terzo per 2/4 e l'ultimo per 1/4 soltanto. E viceversa, un dato migliore dell'atteso in questo trimestre corrente si riverbererebbe interamente sul 2018. Cioè 2018. Se facessimo 0,5 nel quarto trimestre avremmo 0,1 in più di crescita rispetto a quello che noi abbiamo incorporato, e tenendo fermo il profilo che noi disegniamo per l'anno prossimo, 1,01% in più su tutto l'anno prossimo. Allora, e dopo il metro e la pubblicità, infatti vorrei già parlare dell'anno prossimo, perché come abbiamo spiegato molte volte in questi anni è importantissimo il modo in cui tu entri nell'anno dopo, cioè nel 2018, in questo caso c'è la velocità con cui eri. Se arrivi in frenata non ti puoi aspettare un grande primo trimestre, se arrivi con un certo abbrivio invece già è un vantaggio per il primo trimestre dell'anno. Dopo il meteo la risposta 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi vorrei anche commentare alcune vostre dichiarazioni sul tema occupazionale, nonostante diciamo un recupero di 370.000 posti, però voi fate notare insomma, che c'è ancora un grosso problema su giovani e in generale sull'ammontare complessivo delle persone cui manca lavoro, 7.700.000 dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora Luca Palazzi, perché temete? Abbiamo sentito anche il presidente di Confindustria Boccia dire insomma basta che non si smontino gli incentivi 4.0, il Jobs Act, le riforme fatte. Perché temete? Insomma, la campagna elettorale è una campagna elettorale, tra l'altro questa avviene proprio a scadenza naturale come campagna, ed è anche un bel esercizio di democrazia. Qual è il timore sulle previsioni economiche? Il timore nasce da una doppia constatazione. La prima è che nonostante i forti progressi che ci sono stati nel mercato del lavoro in questi ultimi anni e che dimostrano come non sia la Cenerentola l'occupazione di questo recupero, e posso citare qualche numero, sì. A fronte di un più 3,8% di PIL abbiamo avuto un più 5% nel monte ore lavorate e un più 4,1% di persone occupate. Tuttavia constatiamo, e una parentesi, l'occupazione è l'unica variabile economica insieme alle esportazioni che ha già superato il picco per crisi. Dicevo, constatiamo che ci sono 7,7 milioni di persone a cui manca ancora il lavoro, in tutto e in parte sono i disoccupati, sono le persone che essendo disoccupate non hanno però fatto un'azione di ricerca nel periodo di rilevazione dell'Istat, sono le persone che hanno un'occupazione ma part time e vorrebbero avere un'occupazione a tempo in pieno, per questo diciamo in tutto o in parte. Constatiamo che ci sono crescente strati di popolazione povera nonostante capofamiglia lavori. Quindi dal punto di vista economico e sociale non possiamo dirci soddisfatti, così come l'altra constatazione è che è vero sì che abbiamo chiuso il differenziale di crescita rispetto agli altri paesi, partivamo da livelli del 1,5 addirittura 2,4 nel 2012, ma era piena recessione, ma ancora nel 2014 1,5% allo 0,5 atteso per l'anno prossimo e per il successivo, ma è sempre a nostro sfavore, che significa che il divario assoluto continua ad allargarsi, che significa che noi in termini relativi diventiamo più poveri rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro. Vogliamo diventare più poveri? Vogliamo diciamo andare indietro come succedeva prima della crisi? Questo era il punto di domanda. Allora, se proseguiamo nelle riforme, cerchiamo di rimuovere quegli ostacoli strutturali alla crescita del paese, pensiamo alla burocrazia, ai tempi lunghi di risposta, agli investimenti, pensiamo diciamo al caso che avete fatto durante la trasmissione prima di questo collegamento per quanto riguarda lo sbocco in Puglia di questa importante infrastruttura che porta energia. Pensiamo, cioè, tu dici, diciamo, tu temi che ai ci sia tempi della giustizia. Pensiamo al anche i pagamenti della pubblica amministrazione, visto che ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, ancora si sono ridotti ma ancora in ritardo. Cioè, tu temi, se ho ben capito, che un po' la ripresa in atto, ma soprattutto il non aver capito che le riforme fatte, ci siamo a metà del guado, e se non ammoderniamo il paese, la differenza tra noi e il resto d'Europa ci rende relativamente più poveri, cioè la povertà può essere assoluta ma può essere anche relativa, cioè il confronto con quello che fanno gli altri, e che la campagna elettorale sia un ottimo elemento, scusa, per iniziare a promettere non altre riforme, ma il tornare indietro sulle riforme fatte, se ho ben capito. Forse sulla campagna elettorale il punto fondamentale è quale idea di paese si vuole avere, quale idea di paese si vuole promuovere. Vogliamo un paese incentrato sul lavoro, sull'impresa, sulla capacità di cambiamento e quindi di adattamento ai cambiamenti che comunque avverranno, ci piaccia o non ci piaccia, il mondo va avanti, continua a girare. Tecnologicamente, in quelli che sono i centri nevralgici degli scambi delle produzioni mondiali, pensiamo solo alla Cina, nel 2000 occupava circa l'8% di quota della produzione manifatturiera globale, adesso ne occupa il 30%. Ora, noi possiamo diventare partner della Cina, sfruttare la crescita della domanda interna cinese e questa enorme infrastruttura che si chiama Via della Seta per vendere anche i nostri prodotti in Cina, oltre che per importare i prodotti cinesi, oppure possiamo subire questo cambiamento e quindi trovarci, diciamo, impreparati ancora una volta a quel che succede fuori. Questo sarebbe un dramma per questo paese. Ricordiamo un dato, che è quello dei pochi occupati giovanili. Nel 2016 61.000 persone sotto i 40 anni hanno lasciato il nostro paese. È un dato che è sottostimato, perché non tutti quelli che vanno all'estero si cancellano dall'anagrafe dei comuni per iscriversi all'anagrafe dei residenti all'estero. Anzi, di solito sono una minoranza. Ed è un più 19% sul 2015. La maggior parte di questi ragazzi sono preparati, diplomati, spesso laureati. Noi abbiamo investito in loro, come famiglie, come istruzione pubblica, l'equivalente di un punto di PIL. Vogliamo continuare così? No, è chiaro, non devi convincere me. C'è poi il tema, lo dico a chi mi scrive, del tema salariale. Però attenzione, c'è anche un tema salariale e c'è un tema, come ricordava prima Luca Paolazzi, ce ne siamo già occupati, che a fronte di un numero di occupati lavorano un po' meno, cioè mancano l'appello, non ricordo mai 1,5 milioni di ore lavorate. Però questa è una dimostrazione che sì, c'è questo miglioramento economico in atto, ma è ancora del tutto insufficiente e soprattutto non mi sembra il caso. Ma io poi ognuno faccia la campagna elettorale che vuole. L'importante, aggiungo io, questa è un'opinione personale, è la serietà e la coerenza. Cioè tu sei contro una cosa dal punto di vista economico, proponi l'alternativa. A chi mi dice lei è ossessionato dall'IVA e dal TAP, no, io sono ossessionato dal non aver capito ancora che cosa dovremmo fare al posto dell'IVA e che cosa dovremmo fare al posto del TAP, non che non si possa migliorare, andare a controllare quant'altro, questo, cioè il cavalcare solo l'onda populista, regressista come abbiamo chiamata, di fonda anti-industriale, in questa idea bucolica che in Italia si possa campare tutti e i giovani possano restare e non andarsene, solo facendo le cose solo col turismo, che è importantissimo, con l'agricoltura magari biologica, che è importantissima, e con poche altre produzioni di nicchia. Sono d'accordo che c'è un tema salariale, ma c'è anche un tema occupazionale. Grazie intanto a Luca Paolazzi, poi staremo a vedere, tireremo ospite, se non avverrà prima di Natale, so che può sembrare un po' presto, ma inizio anche a fare gli auguri di no, dicono di no, troppo presto, allora non faccio gli auguri di Natale lo stesso. A Luca Paolazzi, andiamo sul traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, guardate, lo dico a chi scrive, so benissimo, e ne abbiamo parlato, che c'è un tema, ripeto per la terza volta, di pressione sui salari, e come scrive qualcun altro, del fatto che avendo, diciamo, delle politiche così restrittive in Europa abbiamo dovuto scaricare parte della competitività sui salari. i salari ripartirebbero anche in un altro modo, ripartirebbero con degli investimenti pubblici. So già che adesso qualcuno mi attaccherà che sono ancora sotto di un 30% rispetto alle pre-crisi, i pubblici, non gli investimenti privati. Ma voglio dire, andando per priorità, la priorità in questo momento è il dato occupazionale. Certo che poi si può auspicare un aumento anche dei salari, perché vorrebbe dire far crescere anche i consumi e la domanda interna, che per carità crescono anche se tu fai degli investimenti pubblici un po' più corposi. Quello che dico io è un'altra cosa, è da qua a marzo, è il 4 marzo, si voterà il 4 marzo, allora da qua al 4 marzo non mi sentirete dire nulla come sempre su nessun partito. Chiederei però, nella Costituzione c'è uno degli articoli più, cioè meno attesi di questo paese, che ogni legge deve prevedere la sua copertura. È il meno atteso, perché non saremmo mai arrivati al debito monster che abbiamo se fosse stato applicato. Ecco, parafrasando questo, che ogni proposta di riforma, di cambiamento, debba indicare anche che cosa si farà, non solo che cosa si va a distruggere, e come la cosa viene coperta. Di tutto, non mi interessa su che cosa. Bene, non vuoi fare il TAP, dimmi come ci approvvigioniamo di gas. Vuoi rimodellare il mercato del lavoro? Dimmi che cosa faresti e come questo va incontro alle esigenze delle imprese. Tutto così, basta, solo per coerenza e per serietà. Andiamo a chi purtroppo oggi è entrato in cassa integrazione, e mi riferisco ai lavoratori della Melegatti. Ieri c'è stata la produzione, una cosa incredibile su questo, perché c'è il fondo maltese Abaluan che ha garantito un prestito da 6 milioni di euro. Così sono stati sformati 1.575.000 tra Pandori e Panettoni. Tutti andati a ruba, anche perché l'hashtag Noi Siamo Melegatti ha creato una fortissima domanda anche nella grande distribuzione, che su questo dice abbiamo ancora richieste. Però la produzione si è dovuta bloccare. Per capire quello che sembra un paradosso, di nuovo ringrazio Barbara Ganz del Sole 24 Ore. Buonasera Barbara. Buonasera. Allora, in realtà questo stop era già previsto nell'accordo col tribunale, no? Sì, sì, assolutamente. Erano proprio le condizioni con le quali era stata autorizzata la ripresa della produzione. Quel numero, 1.575.000, era il numero delle scatole, dei cartoni che c'erano già in magazzino e che quindi non serviva ordinare e commissionare. Io ho controllato 5 minuti fa, non c'è ancora una firma su questo provvedimento di cassa integrazione. Questo per dire che probabilmente è possibile, insomma, che si tratti anche di un provvedimento molto meno pesante o invasivo, sia in termini di durata che di personale coinvolto, di quello che magari ci si può aspettare. Ecco, dopo io vorrei capire però come si è arrivati qua, perché la Melegatti l'anno scorso ha fatto 70 milioni di euro di fatturato, due stabilimenti, tutti e due nella provincia di Verona, San Giovanni Lupatotto e San Martino Buonalbergo. Tra l'altro inaugurato il febbraio scorso con un investimento da 10 milioni di euro. Allora, com'è possibile che tu inauguri uno stabilimento dove hai speso 10 milioni di euro e poi a febbraio e poi arrivi a novembre che non riesci neanche a produrre i panettoni, poi li produci i pandori e poi li produci in maniera così rocambolesca che anche se c'è molta domanda, anche per la solidarietà dei consumatori verso il marchio, non li riesce più a produrre. I dipendenti sono 90, ma ce ne sono 220 di stagionali. Temo, ma chiedo la tua risposta dopo il GR24, che tutta la vicenda sia non un problema di prodotto, ma un problema societario. Cioè, e qui entreremo nel tema delle due famiglie, Turco e Ronca, e dei litigi interni, che non sono nuovi anche nei grandi gruppi o ex grandi gruppi veneti. Sarà un caso, ma Baruffe Chiozzotte è una delle opere del Goldoni e proprio di questo sta parlando. Cerchiamo di capire che tipo di Baruffa Chiozzotte è stata quella della Melegatti, che ha portato di fatto poi, un po' come i polli di Renzo, ad arrivare appunto alla cassa integrazione oggi, nonostante quello che vi abbiamo appena raccontato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. To let myself flow, to let myself flow. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, finiamo o raccontiamo la vicenda che è abbastanza emblematica di come si possa distruggere valore, a mio avviso, per lo chiamate Baruffa Chiozzotte per essere anche quasi buono. Ma dicevo, la vicenda della Melegatti. Allora, c'erano la proprietà del gruppo da anni nelle mani di due famiglie, Turco e Ronca. Con il Turco, che nel 2007 hanno preso il controllo, ma con litigi interni. La società guidata dal presidente Emanuela Perazzoli parte da famiglia Turco. È dal 2005 che le due famiglie, se ho ben capito Barbara, si divisero tra chi intendeva cedere e chi voleva continuare l'attività. Ma come si arriva ad inaugurare uno stabilimento a febbraio e andare in cassa integrazione, diciamo, a dicembre, con i dettagli che abbiamo raccontato? Allora, qui c'è una conflittualità appunto nota da anni, e si entra in uno scenario difficile in cui ogni campana ha una versione molto diversa da quella dell'altra. Ti dico solo che nel comunicato dei sindacati le famiglie Ronca e Turco vengono definite le due fazioni. Questo rende abbastanza l'idea del clima che si è creato, e quello che si è creato soprattutto è una situazione di un debito con le banche per 10,5 milioni e con i fornitori di 12 milioni. Questa è, diciamo, la situazione che si è creata. In realtà l'apertura del nuovo stabilimento, quindi l'investimento che era stato fatto, era proprio finalizzato a dare a Melegatti uno sbocco anche sui mercati, sui prodotti prodotti continuativi, quindi non solo da ricorrenza. Era una cosa fatta per appunto aumentare la pasticceria, non solo, diciamo, per Natale, esatto, e Pasqua. Esatto. E si sono fermati esattamente su questo. Nei prossimi giorni dovrebbe essere nominato un nuovo consiglio di amministrazione, insomma, che prevedibilmente dovrebbe creare una situazione più... Ma al di là delle ragioni degli uni e dei torti degli altri, chi ne paga le conseguenze per ora sono i lavoratori della Melegatti. Però possiamo chiarire, insomma, come a livello di informazione giornalistica, il motivo di questa continua discussione, continui attriti, le due fazioni, appunto? Guarda, per la verità appunto sono due versioni molto diverse. C'è chi contesta la direzione affidata a una persona che non nasceva come imprenditore o come imprenditrice, però ripeto, è davvero una crinale molto scivoloso e di cui anche le persone che sono al lavoro adesso preferiscono non parlare. E invece il fondo maltese, che garantisce 6 milioni di liquidità, sì, per la campagna di dicembre, è temporanea come presenza. Noi abbiamo cercato anche Luca Guaggini, ma non riusciamo a intervistarlo. Prego. Dunque, questi 6 milioni sono fondamentalmente un prestito, per cui destinato a rientrare, e sono già annunciati 10 milioni per la campagna di Pasqua. Poi è chiaro che una volta gestita questa ristrutturazione del debito, se il fondo decidesse di ripianare appunto parte del debito, allora lo scenario cambierebbe e ci sarebbe un passaggio di proprietà. Però per il momento il loro ruolo è questo. Ultima domanda, quando è che torneranno a produrre? Perché se ho ben capito, invece, come tu già ricordavi, c'è la promessa di altri 10 milioni per la produzione di Pasqua, quindi lo stabilimento quando è che riaprirà? Potrebbe riaprire anche dopo l'Epifania, perché c'era comunque un periodo di ferie alla fine della produzione natalizia e prima di quella pasquale. Il problema è che in questa fase i lavoratori hanno finito le ferie in quel mese di presidio e di stabilimento sostanzialmente chiuso. Per cui questo è il significato anche di questa cassa integrazione. C'è un periodo poi anche, sai, di pulizia, di manutenzione, di passaggio, no, da Pandoro a Colomba Pasquale, per cui un periodo di stacco era fisiologico. Potrebbe iniziare addirittura dopo l'Epifania. Noi ce lo auguriamo. Grazie intanto a Barbara Ganz. Passiamo adesso alla borsa, ma ho visto, vi leggo anche un'agenzia, perché oggi è il giorno dell'audizione in commissione bicamerale sui crack bancari di Gianni Zonin, l'ex presidente della Popolare di Vicenza, e pochi minuti fa, entrando in commissione, ha anche fatto delle dichiarazioni. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, ha detto Zonin entrando a San Macuto, purtroppo ho perso anche io dei soldi, e poi si è detto tranquillo in riferimento all'audizione. Allora, vedremo poi quello che sarà il contenuto, la frase di per sé stessa non vuol dire nulla, forse era meglio star zitti in questi casi. Cosa vuol dire purtroppo ho perso anche io dei soldi? Perché se non li avesse persi valeva meno il crack della Popolare di Vicenza. E poi voglio dire, il problema non è aver perso i soldi, sono i 120.000 risparmiatori che non hanno visto più niente. E il titolo a 62 euro, ma io non lo so, ma uno può anche star zitto quando entra, non è che sia obbligato a rispondere alle dichiarazioni dei giornali, alle domande dei giornalisti, ma dire purtroppo ho perso anch'io dei soldi, ah quindi cercatemi in regia i fazzoletti per favore, perché sennò scatta la lacrimuccia. Andiamo alla borsa, oggi a proposito di banche, pesante per le banche, BPER meno 6,30%, Unicredit meno 4,60%, Banco BPM meno 4,5%, UbiBanca meno 4%, poi c'è Telecom che perde il 3%, Moncler il 2,80%, come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, prima poi di arrivare alla vicenda Ryan, lo dico a chi mi sta scrivendo. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Le banche, qui c'è l'iniziativa della BCE sulle sofferenze. Sì, in verità cioè non è che ci siano novità, no, rispetto su una stretta a ieri, no, della BCE. Il fatto è che, analizzando bene anche gli annunci effettuati ieri proprio da Unicredit, che ha deciso di ridurre di 4,6 miliardi entro il 2019 i cosiddetti NPL, cioè le sofferenze, una mossa che appunto non è stata, la banca non era obbligata a fare. Allora si è creato, diciamo, un certo panico che si vada comunque verso una stretta, e quindi quali titoli si sono andati a vendere? Soprattutto i titoli delle ex popolari, visto che sono le più esposte proprio alle sofferenze. In particolare BPER ha lasciato sul parterre oltre il 6% del proprio valore, Banco BPM il 4,5% e UBI il 4%. E questo è quello che, appunto, come dato complessivo. Debole anche Telecom. Ci dovrebbe essere un incontro tra il ministro Calenda e l'amministratore delegato Genish, no? Sì, però non sono uscite novità, tranne questa mattina che Calenda si augurava, prima di incontrare lo stesso Genish, che l'incontro dovesse essere costruttivo. Al di là di questo, il mercato scommette un po' sul fatto che magari anche quest'oggi ci sia una certa pressione da parte del governo nei confronti della rete. Alla fine, lo scorso 5 dicembre, durante il consiglio di amministrazione, non sono state prese indicazioni o decisioni dettagliate appunto su un eventuale scorporo della rete, ma molto probabilmente il tema andrà per le lunghe, sicuramente, come sostengono gli osservatori, dopo le elezioni politiche. Quindi cos'è successo? Visto che i titoli hanno guadagnato oltre il 10% nel giro delle ultime settimane, nell'ultimo mese, evidentemente c'è chi ha deciso di prendere profitto anche in vista della chiusura dell'anno. Ebbene, Case New Holland più 1%, ST Microelectronics più 0,90%, qui c'è notizia, no? Case New Holland, sì, nel senso che... No, ma anche su ST, sì, tutte e due comunque, sì, prego. ST ha fatto più 0,8% perché ha effettuato un'acquisizione. In verità si tratta di un'acquisizione piccola, molto piccola, ma denota ovviamente, cioè, il dinamismo di questa azienda, e il fatto che nel settore dei chips c'è evidentemente un consolidamento in atto. Poi va detto che le azioni hanno superato praticamente la soglia dei 22 euro, hanno ritracciato, adesso nonostante il rimbalzo di oggi si attestano a 18,7 euro. Per quanto riguarda Case New Holland, invece, tra ieri e l'altro ieri sono arrivate notizie positive proprio sul settore agricolo americano. Si sono risvegliate anche le vendite di trattori e macchine agricole negli Stati Uniti, e questo ha portato la volata anche ai titoli americani concorrenti della stessa Case New Holland, come ad esempio la stessa Caterpillar. Andiamo sui migliori e peggiori: Molmed più 13,90%, Softec più 9,90%, Energy Lab più 8%, Fronte Opposto KR Energy meno 14,70%, e poi BPER Bank meno 6,30%, lo dicevamo, Brunello Cucinelli meno 6,20%, Sogefi meno 5,95%. Grazie a Eleonora Micheli. Andiamo sul traffico, e poi la vicenda, un'altra vicenda che riguarda Ryanair e sta creando l'intervento di tutti in Italia, dal ministro Calenda, dal ministro Poletti e oltre che chiaramente i sindacati, ma sta creando anche una discreta reazione a livello europeo. Che cosa è successo? Lo ricordavamo in apertura: Ryanair ha recapitato a tutti i suoi piloti e equipaggi nei vari paesi in cui opera. Noi abbiamo sotto mano la mail mandata agli equipaggi basati in Italia, che dice sostanzialmente: sappiamo che l'Unione Piloti, l'ANPAC, sta cercando di incoraggiare lo sciopero previsto il 15 dicembre tra l'una, o meglio tra le 13 e le 17, vi facciamo notare che voi dovete continuare a lavorare come sempre e che le conseguenze possono essere la perdita di futuri aumenti, la perdita di promozioni e il meno di trasferimenti richiesti, oltre che un inasprimento sui turni. Insomma, se questo non è atteggiamento antisindacale e tra l'altro che lede il diritto allo sciopero previsto dalla Costituzione, non lo so. Che O'Leary e il suo capo del personale Eddie Wilson studino qualcosa, oltre che fare campagne pubblicitarie, per carità, creative, ma un po' così. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Le dichiarazioni, dicevo, su Ryan, ha iniziato il ministro Calenda, atto indegno, poi è intervenuto anche il ministro Poletti, che è titolare, diciamo, dice controlleremo l'applicazione dei contratti e delle leggi riferite al lavoro. Una nota del presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi, Passarelli, ha detto voglio rammentare che la legge 146 censura quei comportamenti aziendali che possono determinare l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto. E la dichiarazione dei vertici di Ryanair appare non conforme al principio del nostro ordinamento. Atteggiamento analogo anche, dicevo, in Germania e in Irlanda, perché insomma, dopodiché ci sono consigli di lavoro locali in Spagna, Svezia, Portogallo e Paesi Bassi, anche perché lo sciopero è perché la compagnia aerea non sta riconoscendo la rappresentanza sindacale indipendente. Sono anche i piloti irlandesi, l'Irish Airline Pilots Association, che dicono che si fermarono per un giorno il 20 dicembre, appunto dopo che Ryan si è rifiutata di riconoscere i gruppi sindacali. Ora, Ryan, per carità, ha un'incidenza del costo del lavoro bassa, non tanto rispetto all'Italia, perché sarebbe troppo facile, ma anche rispetto a Air France e Lufthansa. Lufthansa il costo del lavoro pesa per il 22%, Air France per il 20%, all'Italia per il 16%, quindi non è neanche la peggiore. Ryanair all'8%. Bravo, se lo fai nel rispetto delle leggi, non esiste che tu lo faccia senza rispettare le leggi. Allora, sentiamo intanto Riccardo Canestrieri, coordinatore piloti dell'ANPAC, al microfono del nostro Simone Spezia, e poi subito dopo anche Giampiero Falasca, che è responsabile del Dipartimento del Lavoro dello studio legale DLA Piper. La valutazione è totalmente negativa, anche se poi alla fine in realtà non ci sorprende, perché è una metodologia classica che però questa volta purtroppo si scontra contro un ordinamento, perché nel nostro ordinamento attaccare pesantemente i lavoratori con minacce sul loro livello retributivo in caso di uno sciopero, intanto questo è assolutamente in debito, come è anche in debito tentare di invalidare l'azione di sciopero nel nostro ordinamento. Dal punto di vista legale voi potete fare qualcosa? Avete intenzione di farlo oppure no? Ma stiamo facendo tutti gli approfondimenti che servono, assolutamente sì, perché chiaramente poi ci fa anche piacere sapere che anche le istituzioni, lo sapevamo già, però stanno in qualche modo sensibilizzando, perché cioè, che sul nostro territorio succeda una cosa di questo genere è assolutamente pazzesco. È un'azione chiaramente illecita, almeno secondo le norme della Costituzione e il diritto del lavoro italiano. È illecita fondamentalmente per due motivi. Primo, perché si vieta di esercitare il diritto di sciopero, che è un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione e che non può essere limitato o compresso, può essere solo regolamentato dalla legge, come succede nei servizi pubblici essenziali. E poi perché c'è addirittura la minaccia di azioni ritorsive. Di fronte a questa minaccia già oggi il sindacato potrebbe agire in giudizio, perché c'è una procedura speciale che si chiama repressione della condotta antisindacale, prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che consente di chiamare in giudizio immediatamente chi si rende responsabile di una condotta che viola le prerogative sindacali, e il giudice con immediatezza, addirittura la legge dice entro 2 giorni, potrebbe ordinare al datore di lavoro di interrompere la condotta antisindacale. Dunque, mi scrivono dall'Italia, guardi che il nostro costo del lavoro è più basso, l'ho detto, è il 16% contro l'Air France che ce l'ha il 20%, Lufthansa il 22%, ma vorrei capire una cosa un po' più banale con il professor Gregory Aleggi, esperto della rivista Air Press. Buonasera. Buonasera. Ma che cosa sta succedendo a Ryanair? Perché se io metto assieme questa scivolata, ripeto, non solo in Italia, in tutti i paesi europei, con quello che è capitato a settembre, 2100 cancellazioni tra settembre e ottobre, 400.000 clienti a terra per un'errata valutazione dei riposi spettanti ai piloti, abbiamo la sensazione che un po' stiano perdendo la bussola, anche l'atteggiamento aggressivo nelle campagne pubblicitarie andava bene nel passato, per carità, ma sembra che ormai si stiano un po' avvitando, o forse è una mia impressione. Guardi, la data importante di settembre non è quella delle cancellazioni, ma è il 14 settembre, qualche giorno prima, quando il tribunale belga ha riconosciuto che è permesso la giurisdizione nazionale sui contratti. In pratica ha riconosciuto che un pilota italiano, cioè un tribunale europeo su un caso belga, ha riconosciuto un pilota belga di Ryanair può chiede essere di avere il proprio caso valutato da un tribunale belga, quindi la giurisdizione nazionale, con alcuni punti di sostanza, cioè la giurisdizione viene valutata caso per caso sulla sostanza. In altre parole, un italiano che fosse di base Ryanair a Dublino non può cercare ristoro da un tribunale italiano, ma un italiano che lavora per Ryanair a Bergamo o a Pisa ricadrebbe nella giurisdizione italiana. Questa sentenza scardina il meccanismo che ha utilizzato Ryanair, che era un'interpretazione molto spinta del diritto comunitario, cioè tu lavori dov'è la sede legale della società. Che ricorda un po' la web taxation per i giganti del web. Assolutamente, è esattamente lo stesso concetto, un forum shopping, un cercarsi una sede legale e un diritto che risponde a una mia particolare esigenza, quindi di volta in volta può essere diversa. In questo caso, qual era, diciamo, l'aberrazione? Che in realtà soltanto una minuscola parte dei piloti Ryanair lavora effettivamente in Irlanda, perché la compagnia ha tantissime basi e l'Irlanda è un mercato molto piccolo e la maggioranza sono fuori. Però avevano dei contratti irlandesi e questo li sottoponeva a un disciplina del lavoro molto poco favorevole ai lavoratori. Finché la compagnia è stata piccola, finché, diciamo, le condizioni di mercato sono state sfavorevoli, tutto sommato questo fenomeno incideva poco. Adesso Ryanair è enorme, c'è una ripresa del mercato del trasporto aereo, ci sono delle alternative, c'è stata la sentenza e i lavoratori, molti dei quali sono altamente qualificati, perché i piloti così sono, hanno la maggior consapevolezza di poter far valere i propri diritti. Quindi questa catena di agitazioni nei vari paesi è dovuta alla decisione, dicevo, della Corte europea lo scorso. Si approfitta di un momento di debolezza, perché c'è questo aspetto della Corte europea, sì, c'è questa carenza di piloti, c'è una battaglia, forse diciamo non tutti sanno, c'è una contestazione tra i piloti che dicono che nell'ultimo anno quasi un migliaio di piloti ha lasciato Ryanair. Ryanair dice di averne persi non più di 200, parla di un turnover fisiologico. Quindi carenza di piloti, cancellazioni voli, sentenza favorevole ai lavoratori, cioè beh, tentiamo la sorte, vediamo di modificare i contratti a nostro vantaggio, perché molto spesso sono contratti diciamo onerosi per il lavoratore. Sì, devo dire che ho capito benissimo lo scenario in cui va un po' in confusione Ryanair e comunque devo dire che la risposta di oggi, come dicono in Veneto, è peso il taccone del buso, peggio il rimedio del male in questo caso, perché si è attirata ulteriori critiche e ha fatto uno scivolone totale, perché vai a toccare a ledere i diritti nazionali in tema di sciopero e tutela dei lavoratori. Comunque, importante quello che lei ci diceva, professore Aleggi, inquadrando il perché si stiano improvvisamente creando queste tensioni in Ryanair. Grazie anche a lei, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.